This nation will rise up. This nation will rise up. This nation will rise up. We'll be right back. Senti da che pulpito, una rimetti di trucco. La tua gara è come l'aus, perché tutti e due pompano di brutto.